la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien. Questa puntata è dedicata ai ragazzi che partono, che volano, come racconta bene questa canzone di Michel Sardou. Tra loro ci sono anche quelli mai arrivati, inghiottiti dal mare o sepolti senza un nome, lontano dalla loro casa. Chi è partito ed è invece arrivato, riuscendo a dare anche voce a chi non l'aveva, è Tarek Ebrane. Nato in Eritrea, vissuto nei campi profughi tra Eritrea e Sudan. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. La mia infanzia è molto difficile, più che per me, per mia madre, perché comunque mio padre era sempre militare, stava sempre in guerra. Era io, mio fratello grande. Per mia madre era un po' difficile perché essendo per in Africa, per una donna sola è molto difficile, deve sempre combattere per non essere stuprate, ti trattano male e comunque sono stata in una zona, sempre una zona di guerra, perché io sono nato in confine tra l'Eritrea e il Sudan, sono stato anche per anni e quel posto. Sia con il Sudan voleva prendere quel pezzo, sia con l'Etiopia è entrata, per questo siamo sempre, come dicono, people on movements, cioè noi ci spostiamo in base al posto dove c'è più, posto più sicuro. Dopo l'indipendenza, cioè nel 2001 ho perso mio padre perché non abbiamo avuto più notizia, non sappiamo che fine ha fatto, dicevano a voce, non ce l'ha tramite amici degli amici, non ce l'ha fatta, è morto. Da lì la condizione del paese è peggiorata perché iniziano a fare servizi militari a vita a tutti, anche da minorenni, per le donne, per i ragazzi. Si portavano a questa città, si chiama Massawa in Eritrea, di qui l'esame di Stato lo fai lì, da lì vai direttamente al servizio militare. Uno vuole fare servizio militare, però il servizio militare a vita, non c'è un limite. Lo puoi fare, anche alla volta alcuni anche accettano fare a vita, però vengono maltrattato, non ti pagano, ti portano a costruire le strade, i sassi. Dopo hanno preso mio fratello grande, io e mia madre avevamo deciso di lasciare il paese, però lasciare non è facile, non è prendere la valigia e domani scappo, entro. Da una parte eravamo vantaggiati perché comunque siamo di confine, era più facile, non è come qualcuno entra dal capitale del paese. Abbiamo impiegato qualche mese per attraversare il confine, solo per organizzare il viaggio. Però una volta siamo entrati in Sudan, lì non è stato molto facile perché sia dell'età di mia madre, sia la condizione economica non ci permetteva due persone a fare questo viaggio. Alla fine abbiamo fatto questa scelta, è molto sofferente, è molto difficile, che dicendo guarda, io ormai è grande, non ce la faccio più, ti consiglio, mi ha spinto che di continuare il mio viaggio da solo, di cui lo sapeva benissimo, non saremmo mai incontrati di nuovo, perché sapevo cosa vuol dire separare dal figlio, sapeva benissimo, per questo è stata una scelta molto sofferente fino ad ora, perché lei non ha avuto mai l'opportunità di vedere questa vita, di avere un letto caldo di cui può riposare almeno per una volta nella sua vita. Ma sua mamma è ancora... No, non ce l'ha fatta, è morta nel 2010 in Sudan. E da lì è proseguito, sono arrivato al capitale di Khartoum, lì sono questi bar in giro per la città, sono punti di incontri con questi trafficanti, basta dici io voglio andare in Libia, questi dicono guarda tieniti sempre pronto, da un giorno all'altro arrivano questi con minibus, ci sali, ti portano fuori dal paese, quasi fuori, ti mettevano, ti radunano uno per uno giorni, ti portavano uno per uno finché arrivano il numero esatto per partire verso la Libia. Però il problema è tu ogni giorno rimani, perdi energia, perché non ti danno abbastanza cibo, non c'è abbastanza acqua, sai, nel deserto, mezzo a nulla, perché fuori del paese. Quanti anni aveva lei? Io sono uscito a 17 anni dal mio paese. Dopo qualche anno sono dovuto partire dal Sudan. Quindi mi raccontava che era in Libia, quindi aspettava, via via che passava il tempo perdeva le forze e le energie, e nel frattempo... È un deserto, prima che arrivare a questa famosa Land Rover, il piccolo jeep per portarti a attraversare il deserto. Ci sono arrivati questi due jeep, ci hanno caricato in ogni jeep su 34 persone, donne, uomini, donne incinte, bambini, neonati in questo jeep, sembravano come scatole di pomodoro, ti incastravano in tutti gli spazi possibili, ognuno aggrappato l'altro, rischiava anche, no, anche di cadere. Fai questi viaggi sul deserto, ti facevano bere acqua mischiata con la benzina per mangiare, ti facevano dare farina mischiata con l'acqua di cui tu non puoi mangiare, sia non puoi bere quest'acqua di benzina. Ma perché? Perché vi davano l'acqua mischiata con l'acqua? Perché acqua non c'è, perché già mettono 34 persone in un jeep, e cosa puoi mettere di più? Già non ce la fanno anche la jeep, sono abbastanza vecchia, però il timore è sempre che è meglio morire 100 volte, il mio desiderio è sempre meglio 100 volte morire nel mare che morire nel deserto, perché muore lì con molta sofferenza e morire, e trovi tanti anche cadaveri in giro al deserto. Proprio sul filo della frontiera, il commissario ci fa fermare. Su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci possiamo ritornare. Ai. Lentamente Tarek cresce, circondato dall'orrore e da storie di persone che non vengono mai rispettate. Chi arriva in Italia è forte, è sopravvissuto a un vero inferno e qualcosa lo si legge nei loro occhi. Ma noi immaginiamo molto poco. La realtà, purtroppo, in questa storia supera di tanto la fantasia. Ed è impressionante la forza buona di quest'uomo, Tarek Ebrane, che con moderazione, senza mai alzare la voce, si batte per tutti. Ed è qui che inizia la storia di Tarek, ed è quella che vi continuiamo a raccontare tra poco. Che questo mondo non è cambiato, pane e coraggio ci vogliono ancora, sembra che il tempo non sia passato. Pane e coraggio, commissario, che c'ha il cappello per comandare. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. بهيوات علقهم دحينكم ما قطعتهم كوينو جن دمتم اوياتهم كتسمعو ولا اذنكم انت شفنكم اوياتنا لعليو كان زانا نويحيو كفلا يسوس parte di Gesù Kyros Kyros sei signore Ksanet sei serenità Conjit, la bella. Kidane, la promessa. Keflom, Keflom, è parte di. Kahsai, è il mio riscatto. Lemlem, fertile. Letta Amlach, giorno di Dio. Lula, perla. Luul, principe. Medhanit, sei la mia medicina. Melles, la risposta. Difensore. Mahari, colui che perdona. Meserret, pilastro. Maharenna, perdonaci. Mahari, perdonante. Mekonnen, nobile. Musie, salvato dalle acque. Menkamu, nessuno è come lui. Merhawi, è il risolutore. Merhawit, Merhawit, Merhawit, è la risolutrice. Siete vivi, siete condannati a sentire queste grida, recita una parte di questa canzone che abbiamo deciso di usare per aprire la seconda parte di questa puntata. L'elenco di nomi e traduzioni del loro significato fa parte di una lista infinita di persone morte in mare durante i viaggi dalla Libia all'Italia. In uno di quei barconi c'era anche Tarek Ebrane, Aveva poco meno di 20 anni e di cose orrende ne aveva già viste fin troppe. Restava ancorato a un sogno Tareke, fuggire lontano dalla guerra, rischiando tutto, anche la vita. Dal campo profughi, in Sudan, Tareke si mette in viaggio, finendo nelle mani di trafficanti senza scrupoli. Dopo il 5 giorni sono arrivate queste bande armate di Kalashnikov, ci hanno fermato, ci hanno messo tutto a terra, ci hanno preso tutto quello che avevano in tasca, e da lì hanno preso le macchine e le autiste, ci hanno portato in un posto isolato, ancora non c'è niente, ci hanno aspettato per qualche giorno, hanno chiamato gli altri libici dalla Libia per venirci a prenderci. Da lì questi sono venuti, ci hanno chiesto di nuovo soldi, la gente giustamente non c'ha soldi, ho detto ok, non c'è problema, noi arriviamo lì, facciamo chiamare qualunque conoscenza familiare in giro per il mondo, dovete chiamare e mandare soldi. Quelle che non c'aveva soldi ti tenevano lì per mesi, anni, lavorare sotto le loro campagne, pulire le loro case, bagni, le donne venivano stuprati. Vabbè, dopo lungo viaggio sono arrivato a Tripoli, non sono tanto fortunato, perché appena arrivo a Tripoli e questi sono pronti trafficanti, mediatori anche del tuo connazionale, ti mettevano in giro questi contatti, questi trafficanti, ti mettevano a questo appartamento in campagna, te radunano uno finché arriva a 300-400 persone senza bagno, senza, se avete notato tutti gli arrivi, la gente ormai è stanca, non ce la fa, perché già era parcheggiata per mesi e mesi in questo appartamento senza cibo, senza acqua. Appena ha preso il primo barcone e dopo 10 ore la barca era, il motore era vecchio, non ce la faceva, siamo rimasti fermi per circa 5 giorni, vedevamo queste barche mercantili passavano, che davano soccorso, nessuno ci guardava. Dopo qualche giorno dopo il 5º giorno è arrivata questa, una nave maltese, invece che ci portarsi in Malta, perché mi ricordavo ancora quel signore urlava, ce l'ha almeno finalmente vedo mia figlia, e quella dopo la sera mi ha chiamato i libici, ci hanno consegnato i libici, da lì abbiamo fatto nei carceri lì. Da lì devi iniziare di nuovo quel viaggio lunghissimo, perché fra un carcere e un altro carcere, poi in carcere, e poi dopo di nuovo nel secondo viaggio invece la barca era molto buona, quella che guidavo non era brava, per questo in un certo punto dicevano appena arrivi verso la Malta cambi un tipo qualche grado, invece quello che era sbagliato ha preso la direzione verso la Turchia, per questo noi dopo 4 giorni ho detto guarda ormai è andato, non ce la faccio più, dopo il secondo giorno ce l'ha fatta a salvarmi dal mare, la seconda volta non penso andrà tutto bene. Per fortuna abbiamo incontrato questa nave in mezzo al mare, tipo sembrava un palazzo di 10 piani, c'era in mezzo al mare, mi sa tipo commerciante, capisce che è. Avevamo questo soccorso, non ci volevano dare un soccorso, abbiamo chiesto aiuto, non ci volevano. La decisione era di fare incidente con loro, sbattere la nostra barca con loro, così quella che è costretta a salvare almeno qualcuno si salva, se no, perché se noi rimaniamo un'altra notte non solo noi avrebbe fatte. E da lì mi ha chiamato la guardia costiera, la marina, hanno avuto marina militare, due guardie costiere, talmente il mare era forte, perché la sera hanno avuto, ci hanno messo 5-6 barche della guardia costiera, marina militare, per fare uno sbordo, perché il mare era proprio forte. Sì, lei una volta arrivato in Sicilia si è messo a disposizione anche di chi arrivava dopo di lei, di chi aveva bisogno, ha incominciato a studiare, è diventato mediatore culturale. Ecco, intanto si vedeva arrivare queste persone devastate, come lei aveva già vissuto dal viaggio, dall'attesa prima, vedeva arrivare anche però uomini e donne, anche bambini morti. Ecco, e lei li ha chiamati nessuno, così come li chiamava Galeano, nati invisibili, morti invisibili, ha scritto. Ecco, e allora a quel punto lei ha deciso che non poteva andare avanti così e si è cominciato a informare, ha messo in piedi proprio un comitato, si è battuto, ha raccolto firme con change.org. Ci racconti com'è andata questa parte della sua storia? No, insomma, ho avuto tante difficoltà, per me qua era anche una guerra fredda, perché alla fine raccontavo delle Libie, dell'Eritrea, del Somalia, tutti mi ascoltavano con molta attenzione. Quando parlo di qua sembrava la gente non ha nessuna attenzione ad ascoltarti, dice ah pure ti lamenti, se tu sei arrivato qua e poi ti lamenti pure, come devo stare zitto, non devo dire niente, non devo lamentare, come devo accettare tutto quello che mi accadeva. È stata ancora più forte, ancora più sofferente qua, vedendo i telegiornali, se non si parla sempre con di numeri, di paura, di... Io sono una persona come tutti gli altri, non sono poverino, persona normale, sono persona poverino, sono una persona normale come tutti gli altri, però mi sono trovato in queste condizioni. Dopo tante esperienze con Medici Senza Frontiere, con Save the Children, alla fine ho deciso di fondare questa ONG, dopo, perché dopo la tragedia del 3 ottobre non si può più andare avanti così, cioè, ho cercato col mio piccolo di dare vita a dare testimonianza a queste persone. Tarek Ebrane si è battuto per chiedere rispetto anche attraverso il riconoscimento di una giornata della memoria e dell'accoglienza, proposta di legge approvata in settimana dalla Camera dei Deputati. Proposta spinta e sostenuta da Tarek Ebrane, un ragazzo eritreo, i cui sforzi sono stati riconosciuti a livello internazionale. Tra i tanti c'è anche una medaglia per l'attivismo sociale del summit dei premi Nobel per la pace. Ma quella che vogliamo raccontarvi e che abbiamo cercato di raccontarvi nel corso di questa puntata è la storia di un uomo che si è battuto e continuerà a battersi per gli ultimi, i nessuno, come diceva Edoardo Galeano nella poesia Los Nadies che sentiamo. Le pulci sognano di comprarsi un cane e i nessuno sognano di non essere più poveri, che un magico giorno piova all'improvviso la fortuna, che cada dal cielo la fortuna. Però la fortuna non piove né ieri, né oggi, né domani, né mai. E neppure piovigina la fortuna. Per quanto i nessuno la chiamino, per quanto gli punga la mano sinistra, o si sveglino col piede destro, o comincino la giornata cambiando la scopa. I figli di nessuno, i padroni di niente, i niente, i nessuno, i ridotti a nessuno. Correndo dietro all'impossibile, morendo la vita, fottuti e rifottuti, che non sono, anche se esistono, che non parlano lingue, ma dialetti, che non professano religioni, ma superstizioni, che non fanno arte, ma artigianato, che non producono cultura, ma folklore, che non sono esseri umani, ma risorse umane, che non hanno un volto, ma braccia, che non hanno un nome, ma hanno un numero, che non figurano nella storia universale, ma nella cronaca nera della stampa locale, che costano meno della pallottola che li ammazza. La prima volta termina qua, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ringrazio per l'ascolto, potete andare sul sito di Radio 24 e cercare La prima volta, lì trovate tutti gli indirizzi per scriverci e per riascoltare questa e le altre puntate. Buona domenica a tutti, da Cristina Carpinelli. Che dopo pochi chilometri ci dovremo di nuovo fermare, da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, con le scarpe. Passerà.